fare, che devo la fare. No, io mi sto guardando la TV, ho sentito te chiamare. Cosa? Detto che bisogna lavarsi in arma prima di uscire. Ah, così. Lavati di la britella e poi andare da paretta che fa freddo, la gira. Non sta, non sta. E ancora il tempo è buono, ma secondo me tutto settembre fa così. Dove va? Dove andiamo al mare dopo qua? E domani lo stesso, sono tutto giorno in campagna io. Domani mattina presto in campagna sotto Sadies. Domani mattina. Oggi. Datta lì. Domani ci andiamo a Monteoro, tutto il giorno. Domani mattina, presto. Alle 9 siamo già lì. Già va bene. Caldo sì. Vabbè, però ancora già fa bene, dai. L'11 va in ferie d'aria e ci andiamo al Alghero una settimana. Sono a casa d'Alghero. E vadere. Capita? Sposa? Mi sposa? Stai a casa. Ho detto che l'11 va in ferie d'aria. Abbiamo preso una casa d'Alghero. Ci andiamo al Alghero. Se non ciamba, 7 o 8 anni, 10 anni, non so di ciò, fa un bel vero. Sì, stavo controllando la cosa, mettilo a posto, ti ho detto che quella è la mia. Ho già preparato anche il posto, io ci ho una parete da 32, però ti ripeto, gli ho dovuto mettere un decollo all'esterno perché non c'è il portascheda, capito? La smart card per vedere le partite, così glielo tolgo quello lì che non mi piace, con le cose all'esterno. E questo qua le rimetto il piantone e lo metto in camera di Ilaria, che non mi frega niente le partite, e quello lì me lo metto qua, capito? Stanza. No, come se non essere pessimista, già arriva, non è detto perché c'ha per vecchi negativi, no? Ma appena arriva, lo sistemi, lo provi, vedi se funziona tutto bene, e poi o vengo io o vieni tu, non c'è problema già. No, arriva perché ho pagato lo stipendio, non arriva già perché mi porta lo stipendio. Infatti, una volta che c'è quello non ce n'è problema. No, io ce l'ho sempre acceso, non c'è problema. No, solo appena lì sì. In Salisette non entra mai nessuno, oramai l'orario è quello, perlomeno questo periodo, dai. Poi quando cambia il tempo e l'orario soprattutto, che avete che mette già bugio, allora già si fanno sentire. Vabbè. infatti. Vabbè. E dove devi andare stasera? Ma qua c'è qualche festa la troce, no? No, qua non so più. Solo che la chiesa la troce fanno pare, no? Qui piazza dentro l'ospedale ma per piazza Fiume te c'è? Che cosa è? Non ho visto niente. Vabbè, stamattina ero impegnato, sto pensando un paio di scaldabagni. Sto facendo tutta ricchina che è tosto a scendernelo, maledetto che tutti e due pieni di calcario, che la mazza viene in varie, tutti e due bucati, tutti e due pieni di calcario, pizza me dai, invece è più biondo che pieno, che nel mio palazzo, io faccio lavori qua nel mio condominio, capito? La manutenzione ordinaria e straordinaria, dai. Infatti mi faccio adesso una settimana di ferie proprio fuori dalle scatole, perché poi dal 21 abbiamo tutti i lavori da fare esterni delle facciate, vuol togliere tutte le cose, le aiuole che ci sono, i cestini che avevano messo, non so se te ne sei mai visti. Toscana ha già scrostato tutte le parti da fare, e io con altre due facciamo tutte le riparazioni che sono da fare, e poi la Toscana la vernicia, capito? No, 82-80 erano lui, ma ti dico, svuotati già da ieri sera, siccome stamattina sono andato a prenderli con un altro amico, la Station Wagon, mi ho messi nel cofano. E tutti e due li hanno voluti da 50, li ho messi a 50, quindi ho cambiato anche i flessibili perché erano da 30, li ho messi a flessibili nuovi da 60, ma a casa ti dico, un gioco a punirlo nuovo, ma a farà nero, quello da 80 quando è vuoto, che è pieno di calcari e pesa un bel cazzo, un bel. Io ho detto qualcosa, qualcuno qui lo piace. Sì, infatti quelli che ho tolto c'era tutte e due la campa, però io campa non ne uso il teflo. Ho messo il teflo, i tappi nuovi, le borchie nuove, ma non sono venute tutte e due, ma è una cosa che ho fatto con l'amministratore, capito? Giusto per fare qualcosa, mi scala la quota condominiale mensile, e in più tutti gli interventi che faccio, c'ho un blocchetto, segno, e a fine mese mi dà dei soldi che praticamente degli interventi che ho fatto, capito? No, è tutto buono, ma poi non sto facendo niente, capito, giusto per no, c'è un'impresa di manutenzione fissa, io do una mano, io mi occupo della parte bassa, da loro della parte alta, perché c'hanno la Toscana. Adesso ad esempio mi sono verniciato il cancelletto piccolo, quello dell'ingresso, adesso verniciare il cancello grande del passo ferraio, poi devo dare una tinteggiata all'androne, il nemico l'ho già fatto dell'altra scala, devo dare una tinteggiata a quell'androne, altri che ce n'è giù, capito? E un po' di manutenzione, dai, sto cominciando tutte le porte delle caldaie, pulendo tutto all'interno delle caldaie, verniciando all'interno delle caldaie, tutte cose che faccio io quelle, no? No, va bene, va bene, adesso io guarda, io ho già detto, facendo la faccia, non Ma tagliamo. Un'antenna verticale senza radiale, che prende poco spazio. Vediamo cosa, tu che sei al computer, controlla, sei più pratico, guarda se c'è qualcosa da poter prendere. Si prende, capito? Si piazza. E da lì esci benissimo alla grande. Con l'antenna interna viva di due, anche nel poggiolo va bene, te l'ho detto, non hai problemi di tetto contro tetto, avete il poggiolo, tubi ne ho io, tanto li voi, ci mette un tubo da 2 metri più 2, telescopico, si fa misura bene, 2 zaffi senza dirante, senza nuda, capito, 2 zaffi di quelle a tassello e via. Sei a posto, ricevi tutto bene e trasmetti tutto bene quando sei lì. Ehi, ma quella notte non ce l'hai a casa tua, non devi stare a girarti i ricatturi, capito? Ce l'hai a casa tua e basta. Tanto quelli paraiete che vè, ce li hai tutti attaccati perché ce li hai alla terroccia. Qua arrivi benissimo, Marco, arrivi benissimo, a Gianni c'era davanti, cosa te ne affrutti? Tanto gente di fuori non ce n'è. Sì, ma guarda, per come l'antenna tutto sta arrivando, Santiago, no, per... Perfetto, radio buona, segnale buono, no, non hai problemi, quindi mettendo un'antenna come si deve, fuori nel poggiolo, alla grande. La boomerang che la punti bene da giù ti arrivi tre parti, non ricordo io Nello lì dalla piazzetta lì di Luna e Sole, arrivava ad Alghero benissimo con la boomerang, l'avevo piazzata io, tarata bene, puntata, mi sembra che era in mezzo, era tra Porto Torres e Monte Oro, in mezzo così, arrivava benissimo da tutte le parti, ma bene però. Ma quale? Quello che c'hai adesso? Ma però lo è lui, dentro è all'interno, capito? È all'interno. Ma cos'è? È calamita? Strano, guarda, io ne ho una, però è VHF, a base magnetica, nella finestra. Nella finestra io sono al secondo piano a Sassari, capito? Nella finestra, con una piastra fatta a misura nel marmo, appoggiata nel marmo, siliconata nel marmo, siliconata, una punticina c'è giusto per non muoversi. E la base magnetica è al centro della piastra. Poi io parlo con Alghero in VHF, capito? L'antenna è dalla parte interna dei parcheggi, quindi del giardino, capito? Ma la base magnetica è fatta bene, perché la terra, questa non ce la fa. Ha due regolazioni, una la carica, l'altra è... Ma io sono un po' di mezzo, no? Aggiunge. Vuole tarata lì, perché la taratura varia da un posto all'altro. Vuole messa fuori con la base magnetica. Cosa c'è? Ringhiera piatta in ferro. Quando ho visto che è attaccata, ma voglio capire. No, no, la ringhiera mi serve sapere. Se la ringhiera c'ha ferro quadrato, no, ferro quadro, piatto, con la base magnetica può rimanere attaccata lì. Deve funzionare per forza. Molto meglio di come sta funzionando adesso. Io ho fatto un l'ho attaccata, tu devi mettere all'angolo lì dove c'è la ringhiera, proprio devi far agganciare la base magnetica lì all'angolo, deve funzionare per forza, se no non ci viene nulla a Sant'Enna. No, stavo rispondendo di là, ma però siamo più basso qua, tanto per la ringhiera. Ah, però ricezione. E come mai? Strano. Devo fare tutta la ringhiera, cercare un punto dove l'antenna sta bene. Perché lì c'è il ferro, capito? E poi è piatto buru, è una cannonata che tu appoggi, la base magnetica rimane ferma, dovrebbe andare bene. Sempre stazionaria e altre. C'è qualcosa allora. Vuole rivista bene, controllata. Molto strano. Io ce l'ho nella finestra. A volte può essere anche la base magnetica, amiche. Capito? E ti crea problemi. Non è detto che sia per forza l'antenna. Come attacchi questa base magnetica? Bisogna che la vediamo, porto il rosmetro, bisogna che la vediamo. Magari ne approfittiamo quando scendo a prendermi la televisione, per far vedere e vediamo cos'è. Vediamo che cos'è. Io antenna della 27 non ne ho perché macchina non ne ho mai messo, se no ne avremmo provato un'altra. Non lo so. Però guarda tu su internet, se trovi qualche antenna buona che costa poco, si ordina, capito? Non ce n'è problema. Puoi farlo anche adesso, no? Controlla. Te la ritiro io, te li do io i soldi, non c'è problema. Guarda, se la trovi una, me lo dici e si ordina. No, ma non è per quello, non voglio perdere l'antenna. Perché ne ho altri, l'antenna, legati da piano. Ma perché? Però non la fare, no? Sono a tarare. Io ho tanta pizza nera, ma non è più. Dove sta qua? Questa pizza. Ma c'è nuovo, sarà questo. Io sono l'ultimo, magari non sono l'ultimo. È nuovo. Sono anche l'ultimo. Tagliato, non questo. Ma tagliata, bisogna vedere se era da tagliare o se era da allungare lui. Beh, hai visto qua? Sì, aspetta. Allora, faccio una giusta, cosa c'è? No, ve l'ho fatto io. Quell'attacco che c'è centrale, che separa i due spezzoni, quella è una carica, cosa pensi che sia? Lì bisogna tarare. E poi mi sembra troppo bassa, mettila più in alto del coso. Sto guardando. E questa mi hai mandato cos'è? La base magnetica. Cos'è qua? Questa ultima che mi hai mandato cos'è? La base magnetica vista là sopra? No, la base magnetica, la base là sotto, e io penso quello che quella di sotto. E che ci vuoi in gomma? Ma l'avevi provata senza quell'adesivo? Uguale, non cambia niente, uguale. No, non è quello lì. No, ma ho detto, la foto che hai, che mi hai mandato, che è questa, vedo che è attaccata al termosifone un po' in basso, è molto vicino alla tenda, staccati, vattene più in alto, poi, scusami, ma questa base magnetica non la puoi mettere praticamente, siccome l'antenna si gira, metterla dritta, la base magnetica la metti dove c'è... piatta verso le alette del termosifone, anziché farla lavorare così a 45 gradi, hai provato? A dritta l'antenna, mettila in verticale, non la fai lavorare a 45 gradi e la metti proprio in piano, davanti alla finestra, staccala la vicino alla tenda. Esatto, così. Guarda un po', 1, 2, 3, questo sta andando a 9 e 40, ed è a minimo di spazio. Perché stazionali ce le hai alte, però il segnale vedi che è aumentato, se 9,5, guarda, solo cambiando posizione, non fa nulla questa antenna, bisogna trovare la posizione giusta e via. Perché poi c'ha due fili questa cosa, perché è fatta così? Vedo due fili, cos'è questa cosa attaccata al filo, perché è sbucciato così, attaccato così? No, quello è la... pratica l'antenna, non è un capo, è un capo solo già. Ah, ecco, sì, adesso l'ho vista bene. Sì, è nuovo l'antenna, lui. È nuovo, già hai migliorato. Lo so che dentro è così, però quell'antenna deve funzionare bene. Perché si è già salito il segnale. E bisogna cercare di tararla, perché già lo sai, già l'abbiamo fatto altre volte, no? Anni fa. Ci vuole pazienza, piano, proprio ci può essere un millimetro, proprio una fesseria dove tu magari tocchi e ti salgono, mentre basta una fesseria proprio da niente e riesci a portarle magari a 2, 1,8, 1,7, va bene. Bisogna, con lo stilo bisogna lavorarci piano, proprio a millimetro, piano, con pazienza, capito? No, è così, è troppo alta, così è troppo bassa, tira, no, bisogna lavorare a millimetri, perché sicuramente qualche spazietto per abbassare ci sono, se no è troppo corto lo stilo, allora bisogna allungarlo invece che a tagliarlo. Cambia niente, rimettitela com'era, se va meglio così che non ti dà fastidio per aprire e chiudere la finestra, rimettila com'era, però è da controllare bene quell'antenna lui, da controllare bene, rimettila com'era che c'hai anche alternata adesso, prima non ne avevi. Addirittura. Parisce, c'è anche la potenza alta, va bene, rimettitela com'era, se non cambia niente rimettitela com'era lui. No, così è giusto, già va bene, no, vai abbondante, sì. Non ne hai accordatore, lo smetto accordatore, non ne hai, un TM1000 magari ti serviva, vedi? Se li abbattevi sicuramente andavi molto meglio. Molte sono, rischi di bruciare il baracchino così, bisogna fare qualcosa, ma non che non ti procuri un TM1000, un HP1000, capito? E allora glielo attacchi, lo lasci attaccato e ti regoli le stazionali, intanto l'usi o sul 23 o sul 10 e vai, sei a posto, capito? Prova a chiedere a Luca, a Gio Maria, se hanno qualche rosmetro, qualcosa, qualche accordatore anche piccolino da poterti abbattere le stazionarie. Se ti serve poco un RG 58, una decina di metri, quelli li accendo io, no, non ce n'è problema. Capito, cosa stai a comprare una matassa? L'importante è farti un'antenna. Se c'è a Luca che le sa fare le antenne, a un 5 euro che pareggi una canava a pesca, te la fai fare e la metti nel poggiolo. E va molto meglio di avere queste antenne di macchina. Ti compri già una canna da pesca che non sia molto grande, una canna da pesca da 3 metri piccola, lo dice a Luca e ti fai fare una antenna come i cristiani. Cazzo, c'è Tore Squalo, cazzo, arriva 9:30, arrivi a casa, cante Gio Maria, arrivi con questa antenna che ha fatto Luca, una cosa allucinante, fortissimo arrivo. Quindi te la metti nel poggiolo a tasso zero, non hai bisogno di staffi, di nulla, di buoni due cavallotti attaccati alla ringhiera e non hai problemi di niente. Dillo a Luca e fatela fare, non stare a buttare via soldi, con 5 euro fai un'antenna. Sa come farle, te l'ho detto, quella di Toro è favolosa, l'antenna è favolosa, anche quella che c'è lui, che ci ha fatto per lui, arriva molto bene. Glielo dici, se vi serve qualche materiale, qualcosa, già ne ho io, insomma, e te la fai fare un'antenna come i cristiani, a tasso zero, se te quindi dirà, con 10 euro fai tutto, vai. Non c'è qua, no, è continente lui, non abita più a Sorsono. È sceso a Ferragosto che doveva fare, doveva togliere il contattore, non so, la disdetta l'acqua che mi ha anche telefonato per sapere come fare, non ci abita più lui a Sorsono, abita in continente, ci ha portato anche la moglie, la figlia è già salita, c'è un po' di anni in continente. È sceso, perché non l'hai cercato? È sceso, adesso è risalito su. Siamo sentiti da poco al telefono. È risalito. C'era forse una settimana, è rimasto qualcosa, 3-4 giorni ad agosto. E poi adesso è ripartito, capito? È ripartito perché la figlia riprende le scuole. L'hai iscritta a scuola dove il continente, adesso mi ricordo che città è. Già ce li ho io un po' di metri di RG 58, ci mette il cavo nuovo senza barilotto, questo barilotto, che barilotto, nuda, tu dillo a Luca, se c'è la canna da pesca, dillo se te la fa, ti fai fare un'antenna che non sia molto grande, e si mette nel poggiolo, cavallotti ce li ho, te li do io, si attacca col cavallotti, senza buoni traffi, senza nuda, capite? Se serve qualche tubo o qualcosa per entrare dentro la canna pesca, te la ferma, tu chiedi a Luca se te la fa, poi materiale io ne ho, non ti preoccupare, tu chiedi se te la fa, se te la fa gliela fai fare e mi dici cosa ti serve. Esatto, tu fai così, chiedi a lui, te la fai fare, un sicuro da giù tu fai tutto, dici io, e va bene da lì, si mette nel poggiolo, perché a casa due è un'antenna leggerissima, non hai bisogno di niente, si mette un angolino, un punto buono, cavo nuovo, lo fa entrare dove deve entrare, te la do io la roba, non ti preoccupare, tu fatti fare l'antenna, poi se ti serve materiale per l'antenna, già ne ho io, capito? Ci devo fare pure un radiale piccolini, ce li ho io in alluminio fini fini, ne ho materiale comunque, non c'è problema. Materiale che c'ho è massarda, ce n'è, c'ho tubi, fini, quello più grosso che avevo l'avevo dato a Natalino, ma ne ho fini da mettere lì, tranquillo, le staffe, ci prendono, ma non ti preoccupare, per le staffe, per il materiale, tu devi chiedere a Luca se te la fa l'antenna, se lui ti fa l'antenna, tutto il materiale ti serve, te lo do io, non ti blocco il cavo, quello che ti serve, c'ho tutto io. Sono sicuro che se metti quella un'antenna di quelle fatte da Luca, canna da pesca, hai risolto il problema. Leggera, tranquilla e non ci sono problemi. Tu chiedi a Luca, tagli il trucavo, non c'è problema, te lo do io, nuovo, non è molto, però già basta, ho visto le distanze, più o meno, già basta, capito? Va buono, i chivi, si fa entrare il cavo, la finestra, ha fatto bene, e tu sei a posto, e c'è l'antenna a casa tua, senza rompere scatole a nessuno. E vabbè, però le devi... Così sono troppe, Lu, tre sono troppe, capito? Tre sono troppe, devi cercare di abbatterle. Se tiri quella devi prenderti un accordatore e abbatterle, capito? Metterla fuori e abbatterle. Se no, se non vuoi avere accordatore in mezzo ai piedi, te l'ho detto, dici a Luca, ti fai fare un'antenna con i cristiani e tu sei a posto, capito mi hai? chiediglielo lui, già viverete, sopravviverete, quindi appena lo vedi, lo chiami, lo senti, glielo dici, se ti fa un'antenna. Se ti fa un'antenna, stai tranquillo che con quelle antenne lì funziona bene, perché dove arriva fortissimo da tutte le parti, arriva, quante Gio Maria arriva a casa, capito? Nonostante Gio Maria abbia la manta, poi lui c'ha quell'antenna, funziona molto bene. Sempre per una piccola, 3 metri, poi lo vede lui, dai, che non sia grande. Per il materiale che ti manca c'ho tutto io, cavo, le staffe, chi su chi ti servi, l'antenna ci serve a noi, e buh. Ci aggiorniamo, fammi sapere. A proposito, mentre vai c'è dell'aria, c'hai qualche telefono buono usato in vendita? Cos'è? S6, così hai detto? S6, quello lì, ma cos'è, della Samsung? Ecco, ma ti telefoneggi, ho messo rotto le balle. Aspetti, chiamo e ti passo a lei e glielo dici cosa c'hai. Lu, capito mi hai? O mi chiami tu o ti chiamo io, così ti passo in aria. E fammi la foto, allora, così glielo faccio vedere. Aspetta che non è ancora arrivato, appena arrivi te lo dico. C'è un telefono che c'è ancora preso il cazzo, cosa è, che telefono è? Ecco, è arrivato, aspetta. Lo sta guardando. Va bene, poi ti aggiorno, dai. Ok, se devi andare vai, saluta mia manina, allora mi ritiro, intanto non è entrato nessuno, non sento nessuno, si rabbia le luci, lascio la radio accesa, se vuole entrare qualcuno chiama, se no si rabbia in gomma le vostre mani. Se sei lì o se sei a casa tua, fatti sentire, ok? Ciao Lu, ci sentiamo.